sa femmina però. Ah, bello. Via. Come mai stai facendo le analisi? Cosa c'ha vivo? No, beh, sono di operazione questa. Operazione dove? Alla fine. Perché cosa c'hai? Calcoli. Oh, via. Andiamo bene. Perché non te li fanno in ospedale direttamente? Devo fare la prova per la ah. Che bagale. E vabbè, speriamo che vada tutto bene. Là. Che problemi ti stava dando? Vedi, uno non ci pensa, pensa che sia una cosa così, era insistente come mal di pancia, cioè ce l'avevi fissa. Ahia, vabbè, anche quello vuole fatto, là. Già sarà roba di pochi giorni che ti tengo. Dove fai al policlinico? Al policlinico lo fai o all'ospedale civile? Va bene. È una cosa di routine quella lì, non è che sia. Però sempre un'operazione è da. Cambi la pancia. Ah, lo fanno così. Allora è una cazzata. Entrano con i laser e si rimangia. Si rimangia il calcolo. Ah, li tolgo. Vabbè, speriamo che sia una cosa tranquilla, che sia roba da niente. Ohia! Ma che ti ho visto che stamattina ha preso e fatto due dì, questa cazzo che stava a lui. Ohia! Vabbè, là. C'è una cosa che si risolve. Ti hanno fatto l'ecografia? Ah, dove facevo l'iperbarica io? E da che cosa è dovuto, te l'ha detto? Non dall'acqua, da queste cose qui. Sì, magari l'acqua calcare. Ohia. Anche la mia suocera gli erano venuti, stava piangendo come un bambino, vedo lui. Quando sono andato all'ospedale a trovarlo. E uno che si è azzardato a dirgli come sta. E non lo vedi come sto, si incazza come un mondo. Perché lì ha codici, se c'è un codice giallo o un codice bianco aspetti, ui, il codice rosso entra prima. Sì, anche con me avevano fatto così quando avevo avuto la labirintite. E vabbè, già sono cose che si risolvono in fretta. è quello lì. Cosa c'è stato a vedere in Tazenna l'altro giorno? No, ho già fatto la... Dove erano? In piazza dei Turi lì? Ah, di fronte al Barsanna lì? Sì, l'ho visto che l'hai mandato in diretta, già l'ho visto. Ma lui, io ti dico una cosa, non voglio essere critico, però da quando manca Andrea Parodi, t'azienda, boh, non mi piace di più, sinceramente. La voce melodiosa ce l'aveva lui. Lui era unico, cazzo, cantava con una voce strepitosa, proprio unica. Ne ho sentito pochi, voci così melodiose come ce l'aveva lui. Ma prima ce n'era un'altra, adesso l'hanno cambiato di nuovo il cantante. Quello c'era bravino, questo non l'ho mai sentito. E hanno avuto anche una donna che cantava, lo sai. E andava, dai, sentiamo lui, buona passeggiata. Ciao, ciao. C'è nessuno sul canale 10? Pazienza, già ci compriamo un gruppo elettrogeno. Sì, gruppo elettrogeno. lasciare i candeli ancora, già le stanno vendendo, basta accendere il candele. Vabbè, io penso che non è così, mo. Che tu lo è diventato un frigorifero, le lampadine e un televisore, quindi diceva vabbè, praticamente staccando quei due 10 minuti, puoi anche cucinare col fornello elettrico, nel caso non ci fosse gas. Sì, vabbè, meglio tutto normale, anche se no torniamo alla preistoria dopo, capito? Che appaga. Vabbè, non si è sentito nessuno? No, la verità non ho sentito nessuno. Ieri sono andato a fare servizio lì alla processione che c'era e ho trovato Giovanni Freccia, sta vendendo uno shooter a tavolo, un SBE, c'è stato un eco, poi mi ha detto che c'era portatili, eccetera eccetera, e capo del G8 ne ha 1000 metri, mi sembra che mi ha detto 1000 metri di RG8 della posizione numero 4, diciamo nel Gran Cito RG8, non avevo in base di RG8 capo Lucifero rigido, senza schermatura, senza nulla, non serve a niente, bisogna bruciarlo. Cosa stavo dicendo? Mamma, lo sciure, il microfono verde, ce l'avevo, ho butto il microfono, no, non mi servono mai il microfono, sì, io non ho dentro l'armadio il microfono, occupaggio venuto intanto, vai sui sempre, anzi, quelli della radio che non uso, li ho messi dentro l'armadio, figurati, c'ho solo i microfoni che uso e basta. Non serve nulla, no? Mi dico, un momento sta mettendo, guarda. No, con il bici sta entrando. Sì. Acqua. Sì, infatti faccio il fulmine male stanotte. La vostra bobbia in culo. Ma di giorno è più bello, ma di notte proprio, guarda, fulmine una persa all'altra, no? E tuoni. Non mi dovevo bannuta io. Specialmente il cane. Devo stare per salcare la colina del piscio. Che si spaventa. Sì, vabbè, per i tuoni si spaventa anche il mio. È normale che i cani si spaventino. Non è un problema quello, però se piove normalmente, senza temporali, fulmini, tuoni, balle e polvere, va bene, che piova, tranquillo, senza problemi. Però ti ripeto, stamattina c'era molto caldo, c'era sto vento caldo di ribeccio, forse anche un po' di sciocco, è caricato, piove, tranquillo che piove. Se piove normalmente sono contento anch'io, anzi, può fare l'acqua che vuole, mi trovo molte ore, sta piovendo parecchio, quindi da qua si vede tutto. Finché la fa normale va bene, quando incomincia a esserci fulmini, già lo sai dove siamo noi, siamo a rischio, in questo cavolo di talicci, non sai mai cosa può succedere. Non la prima volta che è fatta la cabina, di qua, lì a Carbonati vicino a casa tua, oppure la cabina che c'ho sotto io, dove c'è il garage, c'è la cabina dell'Ena, cioè, ci abbiamo capito, quella grande. Una volta è saltata, siamo stati senza luce almeno 3-4 ore. Io me lo sai, cioè, perché ho fatto 2500 euro di danno, ma quando mi è saltato la cabina, 2500 euro di danno, documentato, capito? L'Enel mi ha restituito, il 70%. Vabbè, pazienza, infatti siamo molto a rischio con questi cacchio di talici, c'è la centrale qua vicino a noi, abbiamo la cabina attaccata, la luce, io ho stato già abbasso il tutto e via, e me ne vado, a 3 mesi c'è la mille luce. Questa piove a Monteoro, c'era anche ieri, questa piove, Ecco. L'ho visto poco fa, proprio piovendo un bel, sì, a molte ore, parecchio. Poi adesso, vabbè, adesso si è smesso, la verità. Speriamo che faccia piano piano, che non faccia a litri, che c'è un bel gasino. No, già fatta pisciando. Quella fine fine, anzi non sta neanche più piovendo qua, ma lasciala fare, che fa bene anche a me, fa bene alle piante, fa bene alle piante, bene bene, siamo Marco Torre Cataresci, accesso a internet ieri, oggi non ha toccato il telefono, radio sempre spenta. Adesso vado, lo prendo con la mola del collo e ne ho butto giù. Sono di vecchia. Sì, sono vabbè che non lo vedo a Marco. Marco lo sento. Marco al telefono ha chiamato, figurati. Bisogna organizzarci. Adesso i primi giorni di novembre. Ci andiamo in pizzeria se la via in culo. Facciamo una bella serata. Ho detto, sto aspettando che rientri Stefano, mi assino a metà ottobre. Appena rientra Stefano, ci organizziamo. Te l'ho promesso, ti aspettavo a lui. Appena rientra lui, ci organizziamo e andiamo. Pochi ma buoni. Ci facciamo una bella pappata. La mattina io non ci sono, noi devo andare a Sosso all'impianto dove c'ho tutte le chiavi ancora da consegnare, ci devo 8 mesi in macchina, metto un sacchettino, la mattina mi libero, tanto domani non combiniamo niente, qua al lavoro faccio un salto, prendo il caffè con i colleghi, consegno le chiavi perché non mi ne posso nulla. C'è tutte le chiavi che servono, vado in ufficio e consegno KK e poi passo alla cantina e mi prendo 5 litri di vino buono, vendemmia 2017. Ah, lì a cosa? Va bene, alla fettiglia, vicino alla fettiglia, perché alla Santa Maria a Papa, volevo dire. C'erano vino buono già di là. Assaggialo bianco o nero prima di prenderlo. C'è vino buono comunque, non fa neanche male. Cantina di Sosso, logicamente a Santa Maria a Papa. La cantina sociale di Sosso, tanto quando andare all'ufficio per portare chiavi, c'è un mappo di chiavi, ce ne saranno un cento chiavi di tutti gli impianti e di tutto quello che facevo io. E lo porto lì perché sono chiavi che servono. Ci ho 8 mesi in macchina, figurati, domani vado. Una mattina non lo fa niente, ci vado. E passo alla cantina sociale lì a Sosso, mi prendo 5 litri di vino. Prima notte che è un bel buono, vino da pasto, vino rosso da pasto, giusto così per non comprare quello delle rospigne. ho capito. No, già è buono il vino di Sosso, già lo conosco. Io pensavo, anzi la cantina pensavo la verità, tanto tempo fa era chiusa, adesso pensavo che avesse riaperto. Pensavo, infatti per quel motivo lì, se ne vai senza mai a Palma, magari lì era pigliato lì. E invece vai a Sosso, allora meglio così. Se non riaperta, se è buono prendito, almeno non stai andando al circolo a berti quel vino di mischiato, cosa del genere, glielo sai, nei circoli fanno così. No, non ho mai preso io. Io lo prendevo, me lo portava un collega da Usi, oppure andavo io qua via Sicilia, che lo fanno con la Vignocchi. Vignocchi c'è un buon vino lo stesso, rosso, è chiaro. A Sosso mi ha detto un collega, dice che c'è, buono, proviamoci, qui, tanto io non è che ne bevo i bicchieri, mangiamo e basta, quindi già mi dura, se è buono magari per Natale si può anche comprare qualcosa in più, capito? E tu non sei uscito? Sono uscito stasera a fare la spesa in farmacia, poi da lì sono potuto andare in via Garante perché mi ha chiamato il capo condomino stasera e l'altro piacevo, sono andato in una farmacia lì a fianco perché mancava il dopo per la, quella crema per le macchie che ho e me l'ho ritirato lì. Poi ho preso il dato, sono salito qua e sono a casa. Dopo se non piove scendo 10 minuti a Zummi, faccio fare la pipì, vado al bar, bevo una birra e poi me la salgo a casa. Ieri non ho bevuto niente, mi sono mangiato due panini in quella manifestazione perché ho visto che c'era l'acqua che sembrava un qualcosa, con l'aroma è congelato, e detto se mangio i panini con l'acqua ci rimango secco. Infatti ho preso il tram, era già di ritardo, le 8 e qualche cosa, sono arrivato a casa, erano le alle 8:30 sono passato da lì, mi sono bevuto la birra veloce e dopo me ne sono pigliato due per portare per cenare per casa, me ne sono messo dentro la bandita, me ne ho scaldate, sono bevuto e poi sono andato a nanna. Intanto l'ho pigliata per cena, non ho sempre bevuto un bagno e lì non ho toccato niente tutto il giorno, tu immaginati dalle 5 di sera senza toccare nulla, l'unica cosa che mi sono mangiato sono due panini e basta. Mangia invece di bere. No, io sono là, forse dall'ultima volta mi hai visto tu, non ci sono più passato. Non sono più passato, adesso sono impegnato la mattina e quindi la sera io poi non esco, assolutamente. Se sono in giro la mattina magari ci passo, ma se no a domo, sabato domenica lo stesso, nulla. E nulla è campagna, lui a lavorare. E boh, stamattina sono andato a provare la Massimiliano, che malattia a casa e niente. Due chiacchiere, due cose, a mezzogiorno me ne sono andato. Ho usato e sono venuto a casa, non voglio andare. No, no. C'era questo vento, non abbiamo combinato un cacchio fuori. Ho fatto due cosettine all'interno, poi gli appartamenti. E buh, il resto a riposo. Qui stamattina mi sono svegliato alle 6:30, una cosa del genere, 6:30 o 7. Tipo questo gni che fa la finestra a casa, quando fa vento comincia così a muoversi, adesso bisogna che ci metto la scaletta, ci metto la condizione in modo non si muovi per niente sull'apparecchio e poi mi prendo la vernice e mi faccio tutte le finestre che faccio perché sto prendendo la vernice originale e quindi il legno si sta allargando, quando tocca acqua, cosa del genere, poi si allarga e capisci, è un casino. Quindi adesso intanto la vernice appena fa un paio di giornate di tempo buono, e la vernice col sole la faccio asciugare, dopodiché tac, e la bienna, poi sono tra 5-6 anni vedrai che mi toccherà cambiare tutte le finestre e quelle esterne. Già sai come ci vivo io, ce l'ho soprattutto quindi sì, al sole e alle intemperie si guastano prima, il legno si guasta prima, senza protezione. Qui c'è gli abbaini basculanti, quindi hanno bisogno di manutenzione, altrimenti si rovinano e costano, quelle costano, stai attento. No, io in finestra me le ho fatte quest'estate tutte. Esterne, interne sono nuove, luce, esterne erano un po' bruciacchiate dal sole, l'aglio tutte pulite con la tela, raccarta, mi ha varato la vernice Giulio, buona, ce n'è ancora, me le ho tutte fatte, e quindi vabbè, mi è rimasto a fare la ringhiera di casa, e boh, adesso una mattina, si capita una mattina bella come quella dell'altro giorno, la faccio giusto per ammazzare il tempo, tanto se la giurità che in giro non fa, se no prendi troppi vizi, capito? Ehi, chiamato mio fratello, l'ha chiamato, dice scendi che me la sto facendo addosso, mi ha detto, cazzo l'ho appena accenato, tu sei tutto scemo, vai, c'è la bandante, ho detto, vado a fare la bandante, girami le balle, io ho preso il telefono in faccia, se ti ha appena mangiato devo scendere giù, allora vai. Lucia, ti ho visto l'altro giorno a tua sorella, ci ho trovato la mattina, vado da Andrea a fare colazione, la vedo quando porta i ragazzi a scuola. Ok, tutte le mattine, a volte parcheggia dietro, è diventato un casino questa via, lo sai? Cazzo, sembra diventata la terza, come si posso dire, il parcheggio di terza cazzo lo sembra diventato qua. Non trovi un parcheggio la mattina, non trovi un parcheggio, se lo devi parcheggiare per andare in via Carbonazzi, o lì, oppure quelle palazzine nuove che hanno costruito qua di fronte dove c'è acqua e sapone. È una cosa allucinante, io non ho mai visto una cosa del genere, c'è via male un coso male. Niente che non venne gente, prova a scendere alle 8 quando vado io, 8 e 10, 8 e un quarto, 8 e 20. Da Andrea vedi cosa vedi macchine, cosa vedi ieri. Ah, cosa allucinante quel bar, mamma mia. Quello che incassa lui, beato lui, guarda, c'è un bel giro. Speriamo che non faccia lo sbaglio della gas, perché se fa lo sbaglio della gas succede come è successo a cosa, a Valle Scarpa. Si è allargato, boh, è finito tutta la pacchia, finita. Basta quelli pecciati di personale, spero che non ne venga a mettere di assumere la tragetta perché non li conviene nemmeno. Ma non vai a ghiaccia a testa, ho visto ieri tranquillo. Lui assume, c'è un buco. Lui assume. Lui avrebbe voluto, dove c'è quello delle macchine, quello che c'è a fianco a lui, quello già è grande. Ma non ci vuole. Lui c'ha quel buco lì, lavora benissimo, poi tavoli di dentro, anche fuori, c'ha la verandina, però non via va, io ci sto guardando un 20 minuti, ma è una cosa allucinante, perché se non c'è vento mi siedo fuori, fumo una sigaretta, leggo il giornale, ma dentro non c'è mai posto, vabbè che è piccolino, però io continuo via vai. Il problema è che ad esempio la mia intende sicuro detto, io questa gente non la sopporto veramente. Sta lavorando, non stai tranquillo, sereno, come va? Benissimo, bene, si tira avanti, non c'è qui, non c'è là, ha visto che non sta prendendo la domenica, ma perché non te la prendo più la domenica? Non vale la pena. Come se passavo tutte le domeniche, tutto pieno di ienti, dalla mattina alle colazioni fino alle 2, 2 e mezza, all'ora di pranzo, sempre pieno di gente, no. Questa gente più ne ha più ne vuole. Io lo so, già. Ci sono due locali, già li visti quelli che stanno vendendo vicino a lui, e poi c'è il negozietto dove vende i vini, già l'hai visto, quindi. E fa bene a rimanere tranquillo, cioè gente allargarsi tutto un colpo. Se c'è un giro, cioè il punto passato se c'hanno quel vizio, c'hanno i ragazzi, vanno per dire, fanno 6 mesi in un bar, 6 mesi in un altro, capite? Quindi uno magari dice, io andiamo in quel bar, c'è un sacco di pelo, cosa del genere, tutto un tratto, piglia e prendono, spariscono, che siamo in un altro bar, e che rimane come un imbecille, non ci va più nessuno. E questo è dato fuori quello che c'è giù in vicino ai pompieri. Quello era sempre pieno. Allora, poi è cominciato, non c'è andato più nessuno, boh, ha preso e ha serrato, adesso ha il mobile di aperto, ho visto. E visto che c'è gente tutti i giorni, c'è il coso fuori, le sedie fuori, e quindi ha capito che già sta guadagnando. Appunto, però se c'hanno quel vizio, capito? Cambiare barra ogni anno, piglia, prendono, cambiano barra. Fanno a giro, capito? Sì, vabbè, ma lui non te ne dà motivo per poter cambiare. È abbastanza gentile, il bar è pulito, quando prendi un aperitivo ti mette sempre qualcosa da stuzzicare, insomma. È un bar che funziona perché c'è molta attenzione in queste cose. Capito? Quindi la gente ci va, e poi c'è moltissima, moltissima educazione. Lì il saluto deve essere obbligatorio, quando entri e quando esci, se non si pone una voce, vedi come saluta, la voce alta, bene, ti deve sentire, ed è molto importante per la clientela questo, vuol dire che c'è gente, come questi bar spenti, a Rugio, gente, buongiorno, buongiorno, alza la voce, infatti intendi, capito? Quindi penso che non ce ne sia motivazione per potersi allontanare la gente, non lo so, c'è il mezzo mancante la gente, come dici tu, però io Andrea lo conosco un sacco di tempo, anche quando c'era il bar a Porto Torres, lui viaggia perché abita a Porto Torres, capito? Abita a Porto Torres, quindi viaggiano tutti i giorni, inizia a essere pesante perché non sono ragazzini, marito e moglie, tanto è vero che Andrea viene molto più tardi, apre quel ragazzo che l'altro Andrea, apre lui la mattina. Sì, già lo so infatti. Ma vedi Daniele qui, io salutarsi, sai quante volte me lo dice a me, Antonio perché non vieni qui a berti qualcosa e quella, e fa Andrea, purtroppo io, non è che forse stavo lavorando, gli ho detto, sei venuto anche tutti i giorni a bermi qualcosa, ma purtroppo di più non posso spendere gli oratori, quindi te dovresti capire. Sì, Antonio, non ti mettere tu bene, mi ha detto, eccetera, eccetera. Che è tranquillo, no? Grazie a Dio, lì. Sono contento che lui guadagni, mi importa non faccio lo sbaglio di che basta quei dipendenti che c'ha, basta avanza, sono tranquilli, basta non se ne metta altro in giro oppure c'è l'altro, che se no qui purtroppo chi si è allargato è rimasto fottuto, solo quello, l'ho capito, tanto c'è di Pellegrini, sta prendendo anche quell'altro, sta prendendo lo stesso, quindi sembra un, come se fosse un palazzo sfortunato per aprire qualche cosa. Con il tabacchino se ne è fuggito perché non ti ricordo, non faceva nulla. Andava lì e si metteva solamente a parlare e non mi funzionava quello, non mi funzionava quella. Poi scarpa, ha fatto tutto un coso, tipo l'egoista, dopodiché molte parate lo fu. E quindi di Pellegrini altrettanto, lì purtroppo ci sono a pagare i debiti e cose del genere, quindi ha fatto la vendita, ci sono debiti con condominio da pagare, quindi quando compri devi pagare anche i debiti, e così anche l'altro, figurati. Ma non è di Pellegrini quello che stanno vendendo, è di quell'altro, non è dove c'è l'esposizione delle porte. Tutti e due stanno vendendo, di Pellegrini e anche quell'altro, visto che c'è l'adesivo piazzato adesso, tutti e entrambi stanno vendendo il locale. Antonio, tu immagini una ditta come di Pellegrini, chiaramente, che io ho conosciuto, sono di Tempio. C'è un'azienda a Tempio, un sacrificio allucinante, uno stabilimento di legnami. Immaginati con l'ingresso di Bricone che vai a comprare una porta a 150 euro, capito? La gente si accontenta di spendere 150 euro, che comprare una porta da 700-800 euro. Tu vai da Bricone, una porta blindata, costa 270 euro. E di Pellegrini, una porta blindata, ci vogliono 1.800 euro per comprarla. È chiaro che il mercato è andato a farsi fotte. E tutte le cose sono così, l'edilizia è calata. Capolino sta lavorando al 50%, quando prima lavorava al 200%. Perché? Perché il materiale vanno e lo comprano al Bricone. Capito? Mattonelle, cemento, tutto quello che serve. C'è una cosa allucinante. Io sono andato da poco a prendere... C'è questo ragazzo che conosce il magazziniere, lo telefono e glielo ordina, glielo prepara già, no, per il cantiere che abbiamo noi qua nel condomino, stiamo facendo lavori. E ho preso il furgone e sono andato. Ho messo 5 minuti a ritirare la roba, l'ho caricata nel camioncino, per pagare ci ho messo un'ora. Una fila che c'è a recarsi è una cosa allucinante. Sì, già lo so, volevo la mia come l'avevo voluto io in un mese. E meno male c'erano le casse fuori all'interno, hai capito? Quindi tutto dentro lì fanno, non si muove nulla, c'hanno i vigilanti all'interno, ma quel veriamo, le case forti, eccetera, eccetera, quindi in pratica è ciò che guadagna le mani lì, non è che va in banca o cosa del genere, capito? I logisti sono loro stessi, ci sono, c'hanno bel guadagno, un sacco di anche di personale c'è. Capito? Ha azzeccato quello che ha aperto lì, veramente ha azzeccato. Cioè, quello è migliorare veramente. Io ho visto che c'è una, ce n'è più di una che gira e c'è anche l'altra, sono vigilanti armati, abbiamo visto, ce n'è sempre uno all'ingresso che ti controlla lo scontrino quando esci, quando c'è materiale, ci fa vedere lo scontrino, tu glielo vedi, tutto lo timbra, capito? Sono ben organizzati, però è troppo, mamma mia, io ho l'altro giorno dovevo prendere materiale per me, le canalette, delle cose, sto facendo lavori su, sono andato di domenica, di qua c'era meno gente di domenica, ancora peggio. Che cazzo, ma parecchio, vendono parecchio, ormai tutti i negozi che c'erano a Sassari, tipo con la cosa e cosa genere, sono tutti andati a cosa, fatti benedire. C'è Bricco, ma c'è tutto, cioè non mi manca nulla, compreso anche le antenne. Le antenne della TV costano 12 euro, figurati. Quando Fusaro le vendeva 25, cose così, tu vai, prova ad andare a fare un impianto d'antenna e ma quella elettrice, no, vado io a comprare le antenne, dove vai? Da Bricco me vado, tu vai pure me le piazze, capite? E quindi è così, non è che ci puoi guadagnare più di tanto, una volta potrei fare anche lo sgobbo, quando c'era se non giocano più, ma sai cosa diceva? Antonio, guarda, questo è prezzo al cliente, questo è prezzo a te, e mi facevo per dire ogni antenna di 20 euro di sgobbo, cioè 20 euro di sgobbo, no, ma 10 euro di sgobbo ogni antenna, TV più l'amplificatore, eccetera, eccetera, quindi c'era la parte per me e la parte per loro. Adesso ormai è finito tutto, la pacca è finita, anche Fusaro è destinato a chiudere, capito? Ormai se non cambiamo le cose arriveremo a essere al punto di dalla Corsica. In Corsica non c'è né Fusaro né GBC né nulla, c'è solamente il negozio tipo Brickman e basta, non c'è altro. Quando ti comprare la roba si guarda il televisore, quindi c'è il cartone della Mondetta, ce lo butti e te ne prendi un'altra. Tecnici lì non esistono per niente, manco componenti. No, mai. Conviene comprare gli UVC TV, mi ho comprato nuovo per il salone. Tanto lei, ma non esistono più le antenne, perché ho visto la Bricco, ma forse Fusaro ce li ha. Tanto nel primo e secondo non esistono più. Oramai ci sono quelle log periodiche che fanno tutto così. Quella che ho io, piazza Tasso, non l'hai vista? C'è quella, piazza quella, è un'antenna unica, ti fa V e U, la metti verticale e prende tutto. Il montero ce l'aveva avanti, quindi cosa vuoi di più? Tutti i canali, vedi? E addirittura quella lì l'avevo installata giù per andare a Pratamona, l'ho puntata al sorso e prendevo la TV francese, installata orizzontale. Tutti i canali francesi prendevo, compresi anche quelli italiani. Se tu immaginati che ho fatto la prova a Montero, sono a 50 metri dal traliccio della RAI, si vede senza antenna la televisione. Beh, guarda, è una cosa logica che si vede senza antenna, tu dovresti piazzare un filtro, se vuoi vedere bene, se no incominci a vedere lo sdoppiamento, capito, mettere il forte segnale che ci vuole un antenatore, così l'ho fatto io su al grattacielo tanti anni fa, non c'era verso di vedere la TV, la televisione, la puntavo a Monte Oro, peggio, la puntavo a Badi Urba, la stessa identica cosa, non c'era verso. Allora sono tornato a Fusaro e detto, signor Giovanni, così c'ho questo problema, ci penso io, mi ha detto, piazza, installa questo, come è installato quella roba lì, vedeva tutto bene, però perché non vedo dove è andato, una volta che mi ha pagato, non ci sono più andato, ha detto vai, quella ragazza non sa più, a parte l'odore che c'era tipo di catrame, roba così, mi è successo con la nausea, aspetta lei per 2 minuti. Mi muovi che adesso me ne esco col cane prima che piova. Non mi ha finito, hai, io volevo uscire.